Allora, no, io... Grazie, no, ma vedate, vedate. No, grazie dell'applauso, però io mi tocca veramente di dire che devo fare questa sera un pezzo veramente duro su Berlusconi. So che qualcuno può essere disturbato, quindi io lo dico prima, se qualcuno vuole andare via, vada, perché qui è veramente una cosa da querela, eh. Quindi io quasi quasi vi chiederei il permesso. Posso farlo? Sì! Comunisti, siete ma tutti no, comunisti. È gente no, obiettiva, tutti comunisti. Democratica. Ascolta no, chiunque. Vabbè, però allora in realtà sarebbe così. Io dovevo fare questo pezzo su Berlusconi, l'ho anche preparato, però proprio prima qui di entrare nei camerini mi son detto, Antonio, che sono io, vabbè. Ma ti sembra il caso adesso per strappare una risata al pubblico prendere in giro così il nostro Presidente del Consiglio? Sì! No, voi sì, ma guardate che non è mica giusto, Questo qui ce l'ha contro tutti, No, voi ridete perché è facile, Perché è così. Perché prima l'avete eletto, poi tutti a criticarlo. Ma questo qui è un uomo solo. È solo, è il padrone, dai. Stai zitto te. È il presidente questo, questo, questo qui ce l'ha contro tutti. Ce l'ha contro tutti. E certe volte mi commuovo. Ma no. Cosa applaudite? Mi commuovo a pensare a Berlusconi. Adesso gliele dice. Dai. Che ce l'ha contro tutti. Povero Berlusconi. Ma voi lo sapete, no, che questo qui è un miliardario, No, ma poteva andare tranquillamente in giro col suo yacht a bere lo champagne con le veline. E invece è sceso in campo e l'ha fatto per noi. Questo è il risultato, guardi qua, comunisti! Ma che comunisti? Ma io certe volte mi chiedo! No. Ma gliele dica, vada con la chiore, dai! Ma io certe volte mi chiedo! È miliardario, è padrone, no, presidente, no. Vada, dai! Io certe volte mi chiedo, Berlusconi, ma chi te l'ha fatto fare, ragazzi? Ma chi te l'ha fatto fare? Chi te l'ha fatto fare? Borrelli, probabilmente! Dopo che lui, sapete, tra l'altro c'ha uno yacht nuovo, adesso si è comprato un tre alberi, tra l'altro uno è fascino, Vabbè, ma non dia un colpo alla botte, un colpo al cerchio. Lei ha promesso di fare un pezzo su Berlusconi, vai. Stai zitto, comunista, perché cosa credi che io non ti riconosco? Ti vedo lì alle 4 di mattina in Italia 1, sì, con l'unità in tasca, a fare quel telefilm lì. Ma la comunista! Va via, parla. Dai, si concentri che su... poi i giudici ce l'hanno sempre avuta con lui, sempre fin da piccolo. Sì, lui quando è nato non hanno mica scritto l'anagrafe. Ma direttamente sul libro degli indagati. Sì, ridete. C'è stata forse un po' di persecuzione, no. Però. E io non riesco a parlare. Io certe volte me lo immagino. È così solo, nella sua stanzetta ad Arcore, a Bacherio, a Milano 1, a Milano 2, a Milano 3, a Portofino, a Porto Cervo, al Bamba, alla Bermuda, a Palazzo Chigi. Ma dove sta lui? Vabbè, una di questi posti. Dio mio. Ma solo. Sì, solino. Che vai, solo. Ma no. Fatelo parlare. Perché può essere mal interpretato quello che lui dice. Sia chiaro. E che cammina. La satira deve essere diretta. No, la satira è questa qui che faccio io. Contro di voi, comunisti. Ma... che cammina nervosamente da solo. Sì. Avanti e dietro, sotto al tavolo. Perché, vabbè, piccolina. Ma questa non è... No, sì, è così. Tra l'altro, bisogna dire la verità. Ecco, allora. Ecco. Perché tutti i giornali ce l'ha con lui. Come? Ce li ha tutti contro. Tutti contro. Dai. Il Foglio di Ferrara è contro di lui. No. Libero, il giornale. Ma... sì. La Padania. Il Piccolo di Trieste. E cazzo, cosa gli ha fatto lui al Piccolo di Trieste? E anche il Rai, diciamo la verità, chi dice il contrario. Sono tutti comunisti. Sì, anche Fininvest. Sono tutti di sinistra. Guardali qui, guarda. Ma che fai? Parli per... Vada dritto. E lui non li manda via. No.